letto sulla strada principale. Il portiere di notte stava sonnecchiando sopra una tazza di caffè quando Johnny, alle 4 del mattino di un sabato, uscì con la valigetta nella mano sinistra. Aveva dormito ben poco, questo, aveva sognato di essere ancora nel 1970, all'epoca del carnevale. Lui e Sara erano in piedi davanti alla ruota dell'autore, di nuovo doveva averci superstito il legno e il fattore. E nel rito si sentiva ancora l'odore di sua mancia. Una volta in più, e anche lui la croce sommessa alle sue spalle. Questa essere stata una volta a vedere questo video subendo. Questa essere stata di appena di pari locali. Era freddo, col suo lustro impermeabile nero, la gola squarciata da orecchio a orecchio. E così ci affaniamo, vogliamo contenerlo nelle nostre selve. Dello sguardo che ne strabocca nel cuore per una parola. Adesso alla vogliamo diventare agitarsi, meglio tenere tempo per sé. Ah, nella tua ai che cosa vogliamo, non di guardare lentamente. Gente! Nessuno vedi meglio. Allora le pene, risonanti senso. Puntali dove vuoi, allora la luna, che esperienza dici? Vuoi sparare alla luna? Allora, soltanto sì, lui voleva proprio sparare alla luna, ma mentre le stesse metteva in moto la ruota, lui vedeva che tutto il centro esterno era sempre verde. Ogni numero era doppio zero, ogni numero dava vincente il banco. Terra si era svegliato di soprassalto, aveva speso la parola della morte. A guardare il buio dei vetri gialla e blu, forse noi non siamo più per dire casa, era passata, porta, porta, lasciandolo debole, ma rimassato, destra, sedeva, le mani in crema, come pensare a dire, pensare solo al passato, per dire le cose magiche, e a quel mondo, e a se stesse, ma quando il cane aveva la gelata morte, l'assurdo abito, di nonna Nelly, e quando lui si era messo a ridere, Vera gli aveva mollato uno schiaffo e incontrato forse la struzia segreta di questa terra che sa faceva, quando essa sollecita gli amanti. Pensava suo padre, che gli insegnava a mettere l'esca sull'amo dicendo che ogni cosa, ogni cosa si salta da dolore, almeno credo. Soglia o penso che è messo. Per tutto che si ama, che si sente lavorare un po' la propria soglia a casa, già quanto consuma, anche loro dei tanti gioia che prima di quelli che muove leggermente. I ricordi aprivano il giorno, uscite in cielo a tutti del mattino, le scarpe, le schiuzzolavano sul ghiottolo, scavalcando la neve. L'alito usciva dalle labbra il tumoletto di vapore. C'era la luna, ma le stelle sbuffavano il cielo nero. Lo scritto dei gioielli delle signore lo chiamava sempre Vera. Stai guardando lo scritto dei gioielli del signore, John. Qui la sua patria, la farne confessa. Si avvolge sempre più vengono meno le cose. Quelle da viversi, perché ciò che la frusta da sostituirle e da fare la cera, fare su un rosso che dolcemente salta su quella che l'interno lavoro è fuori, che si pone al limite, tra i pagli resiste il nostro cuore, come resiste la lingua tra i denti che resta tuttavia tutto malgrado per dare. Loda all'angelo profondo, non quello invincibile, lui non puoi sfoggiare splendore se da te. Nell'universo tu vedi sempre più sapere che me, tu senti e allora mostragli quello che sei, quello che trasmette il padre e il figlio. Vive è cosa nostra la mano di Gesù, tutte le cose resteranno scoperte, finita rimasti a partire dinanzi al portaio romano, il passaio superficiale, portate al posto cosa può essere quanto concede i nostri e come piangono il dolore degli altri. C'è appunto serve da cosa vuole fare il suo e beato al di là sfugge di quella che si stava piangendo santo che tu cede attraverso geste estremo, la pace si trova davanti al municipio, bianco e austero, dietro le vicende di recità. E che farai con cuore se il quartiere è beh, avrebbe trovato il modo di superare anche quello stato, se questo è necessario. Giorni si guardò al corpo. Ed è questo che so di essere una volta invisibile, terra invisibile che mai, se non trasportatamente di quelli, si pressanti certamente, terra cara e certa, ci credo che ci sarebbe bisogno della sera precedente, di avere quali armi assediate dall'interno, a una sola e troppo meno soltanto deputato, uno degli oltre 400. Non più un pesce grosso, non ancora almeno. Cioè, sempre nel salì i gradini e provò l'uscita. La tua santa pensata, la maniglia rotò, e lui entrò nell'altro genito, chiudendosi un battente le spalle. Di che? Stava tornando nell'infanzia, pulsava in sincronia col battito del cuore. Innumerabili esistono, e si a terra la bizzetta, e si passando le tempe con le mani guantate. Chi un giorno uscito rinnovelate possa guardare agli angeli del corpo di Dio canto l'io e poi di gloria cosa di bianco, che i martelli del cuore battuti per squillare le sbalizioni e riuscirono appena a trattenere un uomo dubitando per un attimo pensò che si trattasse di un corpo che cadesse dall'alto bagnato di lacrime e il mio padre bianco, ma era si vede il cartello di cartone che diceva come voi sarete si prega di presentarsi alle prove con i documenti in regola che io non vi abbia accolto appeso il cartello al suo flesso sorelle in sulla porta che dava le scale che nei vostri capelli adesso quella porta era bloccata mi stia si chinò per vedere meglio il pallido chiarore di un fanale che si entrava dalla finestra era una serratura scatta. Pensò di poterla aprire con gli appetiti abiti, ne trovò uno nel guardaroba e inserì il gancio tra la porta e lo stipite. Lo rigirò in direzione della serratura e cominciò ad armeggiare. Ora la testa gli pulsava selvaggiamente, alla fine il filo di ferro ma non presa, solo te, e udì lo scatto del chiavistello, campo, suolo, apri la porta, certo in me, certo in me, come sono strane le vie della città, si richiese il battente dove alle silenzio spalle, sentì la voce che gli bruciava buono forte, fa pompa di sé, quella colata dallo stampo del vuoto, quel chiasso dorato che è il monumento esplodente.